C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? CQ canale 10. CQ 10. CQ 10. C'è qualcuno all'ascolto? CQ 10. Giusto? Ah, vero? Sgamato al volo? Perché ricordo, c'eri uno, tutti gli altri sono nessuno. Indovinato, qua. Ah? Ho indovinato che stai usando il Galaxy, sì. È l'unica radio che ho col VIP, è questa, non ne ho altra. Non t'ho compreso. Ma non mi senti? È certo che ti sento. Ti ho detto che l'unica radio col VIP è questa, non ne ho altre. Ah, ecco. Ma è disinseribile? Certo che sì. Allora, così non c'è più, ad esempio. Ah, ok, no, pensavo che fosse fisso, come il 2009. No, lo lascio per far vedere che sto uscendo col baracchino, se no sembra sempre che sto uscendo col K. Bene, merda. Gloria, non è entrato nessuno ancora, no? No, io non ci uso adesso, la verità. Adesso. Gloria. Magari c'è Alfa 1 all'ascolto, sempre in agguato. Sì, c'è anche Alfa 2, Alfa 3. Giulietta, Alfetta, oia, e tutte cose. Oi, Natalino? Aspetta un secondo, mi ha chiamato mia moglie. Eia, Alfa 1 ci sei, cambio. CQ10, qualcuno in ascolto, cambio. CQ10, c'è qualcuno in ascolto, cambio. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Hola. CQ10. Chi è questo CQ? Yeo. Ciao Natali. Bonsoir, merci, ça va? Très bien, hello. Tutto bene di francesi, Io manco gli rispondo. Lasciali fare. Oh, yeah. E io li lascio fare io per quello. Mi ho fatto l'altro di polo per la 27. Adesso ti aprirai una ditta di fabbrica di ripoli. Ehi, io me ne sono costruito due e ce li ho attaccati, già pronti all'uso. Bene, merda. Oi. Mucho calor. Mucho. Oggi è calda. Nonostante le finestre aperte, c'è poca aria che tira, dai. No, io ho chiuso tutto, ho fatto buio qua e c'ho il ventilatore, si sta così bene qua. Quella pedana del ventilatore, l'ho messo a 2 e va benissimo. Dai, Gerele, lui. No, ma qua, io preferisco aprire un po' le finestre per cercare di far girare un po' l'aria. Giovane, dai. Ehi, sono aperte, c'hanno il coso, le ante che si aprono, c'hanno tutte e due le finestre, le ante che si possono aprire, quelle lì ho aperto solo e boh, quindi l'aria già circola. Hai fatto beh. È entrato caldo poco fa, si è spostato. Cappa, io non l'ho sentito, non c'ero. Anda bene meda, ma ho finito anche le sigarette, mia moglie non c'è a comprarmele. Cazzo, se devo andare a comprarmele sono in mutande, mi tocca vestirmi. Oh, yeah. L'hai visto il video, quella clip che ti ho mandato su Telegram? Ieri. Ma non mi rammento, stamattina mi sembra che l'ho vista. Di cosa si trattava questa clip? Che c'è un tipo che fa parapendio e praticamente gli è un condor, gli si cala sulle gambe. E l'ho visto che l'ha carezzato. Oh yeah, Benedetto. Hai visto? Ma non c'è da fidarsi, quelli sono rapacci, me. Quelli, cazzo, se non stai attento, devi curtire già davvero. Vabbè, ma non in quel caso, dai. Non in quel caso. E in quel caso è stato fortunato il tipo. Dai, comunque non sono scene a cui siamo abituati a vedere, capito? Quindi sono cose molto particolari, dai. E quello sì. Però già era una cosa pericolosa, da, diciamo così. Tutto bene, qui finisce bene, dai. Comunque mi è piaciuto parecchio, dai. Ti ho detto, sono cose che non si vedono tutti i giorni. Questo è poco ma sicuro, Olbia, Olbia. Mi sa che domani gli salgo in terrazzo e gli farò un dutto. Così restituiamo la bambina al legittimo proprietario. Batta Cesare ciò che è di Cesare, così è. Ma è addio quel che è di Dio, chiusa la frase. Forse è entrato qualcuno avanti. Sì, cocuomane. Cocuomane sarei tu e anche Perivella. Hai capito, bello bene? Sì, io sono Perivella, lo metto in moto. Tu invece cadi a testa a terra perché sei cocuomane. Come il sindaco di Plaghe. Sì, siete a tavolone, col sacco. Già non aveva conosciuto il sindaco di Praga, perciò glielo faccio conoscere a Gavino Baule. Non mi risulta. Ma glielo conoscere. Mamma mia, se lo faccio conoscere guai, cazzo, per carità. Allora già anche di grati di sottidini, lascia perdere. E allora meglio niente, dai. Io ogni volta che lo salutavo andando a Perfuras, che mi fermavo a Praga a fare dei controlli, cazzo, non ci arrivavo mai a Perfuras, sempre bucavo. Cazzo, oh yeah. Pur bindaccio, io. Bindaccio? E il bindaccio giù, via. Due trampate a pigliardo, cazzo. Olbia, Olbia, Olbia. E Bulldozer non si è sentito oggi? No, non ho sentito per niente, l'ho sentito quando, ieri per telefono, è brutto. Una sagoma, oh ya, quasi troppo arredito. È una sagoma giù, Mi allontano un attimino a bere un goccio d'acqua fresca, Ehi, va bene. Ma perché dici le bugie? Birra era, non era acqua fresca. Ho finito le sigarette e sono in mutande. Come si fa? Mi do cavicchini. Io ce le dicevo in mutande a prendermela. Che problema c'è? Manco mia moglie c'è che l'hanno invitata a una laurea ed è ancora in Chivi, ancora a Turraie. Lasciala svagare ogni tanto, le fa bene. E almeno non c'è a rompermi le scatole. La canza giù va a piazzarmi un dipolo oggi. Già va bene, hai piazzato tutto a posto. E la tarare, però già l'ho piazzato, non c'è problema, così ne ho due. Per qui, un dipolo per qui ho fatto, e l'altro è lungo. Li ho messi vicini, là. Li ho separati con dei tubicini PVC. Tu devi vedere, roba di lavoro. Oh, ma cosa hai fatto? L'hai agganciato dove? Dove l'hai tirato? Nel viottolo? E allora? Già va bene, allora. Eppure voglio vedere quanto rendono. Appena per un secondo. Gloria, mamma mia, come sto? Yeah. faccio con Gira. Adesso le 10, c'è tu canale 10. Roberto, tu sì. Ciao Roberto, io qua sono qua da un po', stavo collegando fili, banane, baston e quant'altro, non ho sentito un'anima, da quando sono tornato a casa, e credo neanche prima, oggi proprio non si batte chiodo, e il caldo c'è Roberto, anche in moto fuori, sono tornato a casa, mi sono immerso a mezzo busto, dalla testa a mezzo busto nell'acqua. Non potevo più. Cappa, beh. Ho acceso adesso, qua è 27, ho acceso adesso, prima ho acceso un paio di secondi, ma non ho visto, non c'era nessuno, sono andato in altre bande e sto facendo altre cose. Di Provini, almeno passo un po' di tempo a collegarti così, ho collegato qualche relazione che non avevo fatto. Sto cercando di collegare più tanti possibili, un'ottantina ne ho già fatta, adesso devo montare prossimamente un'altra antenna, che con questa antenna avrei migliorare tantissimo, almeno chi me l'ha fatta, lui parla con tutto il mondo, ha già collegato quasi tutti i country, su 340 ne ha fatto 300-320. Vado a lavorare casa mia, perché lavoro casa mia, c'è lo... Ente, solo propagazione c'è. Io qua stavo cablando, ho preso a Robe uno di quelli, mi sono fatto convincere un po', quegli alimentatori switching piatti, quelli per strisce LED, un bel ICB l'avevano preso, dicevano che andava bene, avevano preso tutto il modello da 50 A, dallo stesso venditore c'era per fare 3-4 euro in più il modello 80 A, che poi sai che non li dà mai, quindi più ne hai, anche se sono fittizi almeno recuperi. E gli stavo attaccando la spina gli ho messa come interruttore, ma non dovrei staccare la spina ogni volta, gli sto cablando il cavetto rosso nero con le banane per attaccare i baracchini, ma speriamo di non pentirmene, che sia silenzioso, vabbè, pentirmene, paventesi quello non me ne pento, però speriamo che sia silenzioso anche per le cose radio, capito? E poi mi devo cablare dei Faston per una batteria, sai quelle 9-10 A, quella al piombo per allarmi, macchinette elettriche, quella la uso quando vado sul terrazzo a tarare antenne, a fare prove di antenne, installazioni temporanee, capito? Perché non ho la corrente sul terrazzo ex nonno, quello secondario. Non ho capito questi alimentatori che stai dicendo tu, ma per computer o per social media sono da pochissime di potenza, come corrente ne hanno pochissima, cioè 80 A, esistono dei alimentatori 80 A per social LED. Sì, qualcuno li chiama per computer, però quelli per computer sono quadrati, più quadrati cubici, questi sono quelli piatti che trovi praticamente su eBay, alimentatore switching strisce LED, servono ad alimentare quelle strisce LED quando fai cose natalizie, che ne so, menate, quando metti tutte le lucine in stazione anche, e costano talmente poco, mi pare 22 euro l'alimentatore o giù di lì, più 6 euro la spedizione. Io so che già che 80 A non credo che li darà mai, però per usi futuri l'ho voluto prendere, il costo è talmente basso che tanto vale provare. Ma guarda, sinceramente io ne dubito tantissimo, questi alimentatori cinesi sono ridicole le potenze che dichiarano così gli amplificatori, 2000 watt, 3000 watt, ma di quello stiamo parlando, quello se sarà 6-7 ampere è troppo, te li baci, a parte che LED assorbono una corrente talmente bassa, cioè quanti chilometri devi mettere tu per consumare quella corrente? Secondo me è una cosa inventata, ma proprio ieri ho letto di questa cassa amplificata 2000 watt e assorbimento 200 watt, come va a assorbire 200 watt e a darti 2000 watt di potenza? È assurdo, non esiste, ci credo poco. Stai attento, anche quei caricatori per le batterie, li avrai visti tu, la batteria era 2000 mAh e poi vai a vedere da 15.000 mAh sono 15 ampere, poi vai a misurare se ti dà 2 ampere è troppo, lascia perdere, e soprattutto stai attento che non sono puliti come erogazione, sono molto sporchi, per cui ti possono creare dei problemi alla radio, stai molto attento, perché magari la tensione te la possono dare, però bisogna vedere con che sporcizia ti tira questa tensione, con che frequenza. Vediamo, ma chi l'ha preso dice di essere contento, adesso vediamo un po', ma che vada l'uso per altri scopi. Sì, poi i prezzi sono talmente bassi che 80 ampere, dubito, ma fai che ne dia almeno la metà, seppure. Cioè, per quel tu conta che io, un alimentatore per baracchino, switching dalla Proxel, 5 ampere, 7 di picco, switching, vabbè, c'ha già il cage, la spina, la spia frontale, no? Un alimentatore finito a 13 autofissi, lo paghi 45-49 euro, no? Se questo dà molti più ampere, costa talmente poco, c'è anche la ventola, capito, per il raffreddamento. E l'ho voluto provare, anche io ero scettico, vediamo cosa c'è. E poi questa batteria al piombo di quelle d'allarmi, no? Da gruppi di continuità. Mi è utile quando vado sul terrazzo, devo testare apparecchi, c'è antenne, non ho la corrente, però capito. Vediamo se c'è qualcun altro su 10, avanti. Buonasera, Sei Natalino, tu sei? Natalino, tu sì che mi calmi i nervi. Natalino, tu di quell'alimentatore analogo, sei contento o introduci Rongi in fin dei conti? Di quale alimentatore stai parlando? Quello piatto, tu non l'hai preso quello piatto switching, quello che c'è Morsetti davanti? No, non servono qui. Io ho quelli con gli strumenti, ne ho due, uno da 30 e uno da 35. Eppure io ero rimasto, ho sentito anche qualche radioamatore, è rimasto entusiasta, quindi diciamo che chi ce l'ha si vanta di che vanno bene, chi non ce li ha dice che fanno schifo e bisogna vedere qual è la verità. Comunque pure me lo testo io, è che non c'ho carico, cioè io massimo lo posso testare con 10 ampere di carico, con l'inerito a 100 watt in SSB, di più non gli posso dare, cioè io non posso verificare se da 80 ampere se ne dà 50, nemmeno se ne dà 20, capito? Vabbè, vai. Guarda, non per schifare, denigrare niente. Un alimentatore per radiofrequenza deve avere dei filtri eccetera eccetera, sono molto critici, se li usi per altre cose, per alimentare computer, per alimentare televisioni, tanto di guadagnato, perché peso e rendimento eccellente, ma se non c'è radiofrequenza, io in vita mia non ne ho mai usato e mai ne userò alimentatori switching, sempre a trasformatore, ne ho due grossi, uno da 60 ampere nominali ma ne da 120, a trasformatore senza ventola e senza niente, dalla CEP, che sono i migliori, forse in Italia i migliori sicuri, al mondo tra i migliori, perché non ne conoscono. E poi c'è un altro da 30 ampere continui, della, cos'è questo, non mi ricordo la marca, sempre, no, quello sono la ventola invece, però quello della CEP è allucinante, a parte che pesa più di 20 kg, peserà 25 kg, è enorme, è sovradimensionato perché può dare 120 ampere continui e l'hanno dimensionato per darne 60, per cui non li fa neanche, ce lo potrei 24 ore, mi è capitato tante volte tenerlo acceso. Non ha mai dato problemi, è una bestia di amplificazione, però se li fanno pagare, cioè l'alimentatore di quelle categorie non costa meno di 500 euro di queste dimensioni qua, però sono prodotti eterni, a trasformatore, quelli switch se c'è questione di spazio, ma no, sinceramente se c'è un apparato di pregio HF e cose non ne metterei mai switch, soprattutto bisogna stare attenti alle, quando ci sono temporali in lontananza, alle scariche, anche se temporali a 10 km, li danneggiano, sono molto critici, c'è da dire che quando siedono con non ti danno una sovratensione, l'unico valore, il vantaggio è quello, mentre uno di questi trasformatori, se ti parte qualcosa magari ti arriva una tensione troppo alta e fai danno, però come robustezza ai sovraccarichi, alle cose, sono molto molto meglio. C'è una tariva di nuovo il mic, l'hai sentito? Ah, vabbè, l'hai sentito anche a te. E poi non sono filtrati per l'RF, sono alimentatori del cavolo qua. Ha ragione Roberto, ci vogliono quelli a trasformatore. Se busco un trasformatore me lo faccio io l'alimentatore, altro che questi switching che non servono a nulla. Sì, provocano tante cose. No, perché aspetta un attimino che c'ho il gatto tra le scatole. Vabbè, ma tu vuoi dire quelli sono sporchi quando chiedi ampere, molti ampere o anche con uso normale? Cioè, anche con uso normale baracchino, come fanno? Sporchi lo stesso, cosa possono introdurre? Con Z alternate? Ma non è tanto l'alternata, è il coso, l'erogazione. Allora, io ti faccio un esempio, nel campo ho mandato un inverter da 3000 watt massimo, per cui calcolo è 1500, dai, metà 50, mi ha bruciato due strumenti, non è onda sinusoidale pura, è onda, come si chiama, modificata. Io non riuscivo a capire, ma perché mi brucia gli strumenti? Avevo degli strumentini dove ti dava il consumo istantaneo di quelle unità di regolato di coso di rete, analizzatore di rete, ti dava il consumo in watt, in ampere, la frequenza e il coso, il voltaggio dell'apparecchio, scaldava in un modo allucinante, diciamo, ma alla fine era quello il problema. E lo switching è lo stesso principio, l'alimentatore dell'inverter, anziché trasformarti la corrente da 220 a coso da 12 a 220, e il contrario se la fa da 220 a 12, ma il principio è lo stesso, danno un sacco di problemi. Ci sono degli switching per laboratori professionali, ma costano un'esorbità, questi che vendono per i computer sono così, vanno bene finché vanno bene, però in radiofrequenza io li ho sempre sconsigliati. Io, non io che non so nessuno, detto da gente che li utilizza per apparati, diciamo, importanti, dai, per un baracchino non te ne frega niente, ma se faccio una radio da qualche migliaio di euro ti dà un po' di fastidio, no? Soprattutto quando attacchi qualche lineare o cosa del genere, io sconsiglio, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ok, di nuovo a te Natalino che farà girare per Marco, lasciamo un attimino di bianco se qualcuno vuole entrare, vediamo un po' il bianco e poi Natalino. Ok, riprendo per il QSO. E cosa vuoi? Sono rumorosi, non sono filtrati, non sono sicuri, perché qua quelli che ho io sono grossi e sono switching, però non c'è da fidarsi molto. Io me ne voglio fare uno a trasformatore, capito? E me lo faccio io, gli metto due punti raddrizzatori, già me lo faccio io. Se trovo, io ce l'avevo un trasformatore, ma non so che fine ha fatto, se no me l'avrei già costruito. Scusa un attimo, ma Natali, ma tu non avevi uno grosso della ZG da 40 ampere, venduto te l'ha? E era anche smanettato quello, sì, era 40 ampere non li dava, quando l'avevo comprato, l'ho dovuto far modificare e dopo già li dava, sennò mi si usava l'apparecchio. Infatti se lo trovavo uno di quelli me l'avrei modificato attorno, li avrei fatto quello che ho fatto a quell'altro, l'avevo venduto insieme all'apparecchio. Era bello quell'alimentatore, cazzo poco pesava, era di lusso. Scusa, ho parlato sopra, Marco, avanti. No, non ero io, credo sia Claudio. Claudio, avanti. Ho detto buon pomeriggio, non ne avete fame. Pensa che io non ho mangiato in tutto il giorno, ho fatto colazione stamattina e non mangio, perché dal caldo mi stavo sentendo, mangio stanotte, molto tardi, tipo a l'una. E tu mangi pure il frutto, invece mangiare cioccolati e caramelle e pasticci, una bella insalata, pomodori, citrulli, una bella caprese, roba fresca. Ah, io mi ho organizzato una bella insalata di riso oggi, bella fresca. Thank you. anch'io Natalino, insalata di riso da, per dopo naturalmente, e io che sono vizioso ci aggiungo anche la maionese nel mezzo. E anche io ci ho messo le uova, i wurster, il tonno e oltre a tutto l'altro condimento. Tu la devi mangiare, una bomba è. Già è troppo, troppe calorie, una bella pasta fredda, con un po' di basilico, pomodoro fresco, va bene lo stesso, un goccio d'olio crudo. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Sì, ciao qua. Sì, c'hai ragione Claudio, io pasta fredda in questi giorni. Tipo insalatina sembra, tipo insalata di riso, roba del genere mi. Naturalmente non fredda al frigo, se no mi viene un colpo, la lascio a temperatura ambiente. Che sia fresca ma non fredda al frigo. Vai Robè. Claudio, gli ho tolto, tu non hai cosa vuol dire smontare quella parabola fuori da 2 metri, una cosa spaventosa. Stavamo provando a toglierla e sollevarla, siccome c'era il motore quello grosso, neanche mossa, riuscivo appena a girare, allora ho dovuto staccare la parabola dal gruppo motore, quello a Cardano. Una cosa spaventosa, non me la ricordavo così pesante. Siamo messi in due e ci siamo afferrati per toglierla, quindi abbiamo tolto il motore, ma lei cosa pesa quel motore? Peserà boh, 40 kg minimo, la parabola peserà più o meno la stessa cosa, una cosa spaventosa. E ne ho staccata la parabola, tanto non la stavo usando, quella grande, e metto quel pelo che mi hai dato tu e mi attacco lì, così c'è una bella posizione, non devo mettere né staffa né niente, utilizzo quelle. Esatto, bravissimo, quello è un bel aggancio, lì ci sta. È un bel aggancio quello, molto bene. Sì, ma la temperatura ambiente si chiama pasta fredda, noi la facciamo spesso, soprattutto in questo periodo, di salata e riso, ma senza molto condimento, sempre olio crudo, non maionese. All'interno, amico Duio. Non senti, amico tuo, Roberto. Marcello, addirittura che se vicino a qualcosa. Oggi mi sono andato, adesso stanotte devono andare con Danilo in piazza alla provincia a portare la spiaggina, devono fare il video tutto quanto per pubblicarlo. Mi credi? Sto dicendo che si sente una cosa allucinante, quando sale, quando scende è allucinante, una battenta diciamo. Va bene, niente, ok, io già mi finito il cenare adesso, abbiamo cenato presto perché l'aria c'è una riunione al bar alle 10 e quindi abbiamo cenato presto. E niente, tutto qua, avanti Natalì. Ehi, oiaia, anda bene Meda, che cosa vuoi? E anche io, cioè 3 volte addirittura manco primo mangio, faccio una bella insalata, mi faccio, cosa, magari una fettina stiamo andando, e tu il baghettaggio. In questo periodo bisogna mangiare così, molta frutta, molta verdura, cose così, insalatone, belle, col mais, vedi il mais Marco, il mais va bene, un'insalata, un pomodoro, cetrioli, mais, una scatoletta di tonno senza olio, un cittadino d'olio crudo, oliva buona, poco sale. Questo qui voglio mangiare così ragazzi, perché se no è ancora niente, avete sentito cosa c'è mercoledì e giovedì, domani e dopodomani, siamo a 38 gradi. Io già mi chiudo dal pozzetto. Riprendo io, devo andare a mangiare, vabbè, ma avete fatto bene fame. Se ci siete loco, anche se sarà difficile, c'è una nazionale loco, Italia Germania, a chi interessa, alle 9:15, e c'è il coso, il rientro della partita dell'altro giorno. Dai, vi saluto, è stato un piacere ascoltarvi, dai, ci sentiamo, se coincide dopo, se no quando ci sentiamo. Ciao Claudio, Marco, Natalino e tutti gli SWL in ascolto. Ciao. Vabbè, se hai bisogno che lo sai, non c'è problema. Chiamami che avrei dato una mano per montare quella roba là. Sì, già lo so, tanto dovrò metterla, mi ha fatto dare lo stativo mio nipote, vuole appoggiata perché vanno messi tutti quei fili in giro, sono 5 fili tutto in giro, hai visto com'è fatta? Tutto in giro così, poi bisogna essere in due per tagliarla, perché l'ho lasciata appena più lunga, ho detto devi tagliare un paio di millimetri da una parte e dall'altra, in modo che c'è il rosso basso. Vabbè, poi già ne parliamo con calma, grazie del coso comunque. Ciao a tutti di nuovo. Ciao Roberto, se poi serve altro materiale già ne abbiamo. Avanti Marco. Capo Roberto, ciao, buona cena, buon tutto e sentiamo le prossime. Vai Natali. Ciao Roberto, buona cena, buon tutto. Avanti Claudio. Cappa di Rosma, va bene, che va bene, sì, è così. E dopo diamo uno sguardo a questa partita, per vedere cosa dicono. Sicuramente mi siederò fuori al fresco, aspettando che caldi il sole, perché c'è il sole ancora alto, c'è un caldo allucinante fuori. Aspetto che cali un po' il sole, poi mi siedo un po' fuori in veranda a rinfrescarmi. Dentro casa c'è abbastanza fresco, ci sono 22 gradi e mezzo, quasi 23, insomma, però fuori viene ancora 28, quasi 30. Va bene, avanti Marco. Sì, a parte gli scherzi, si è detto così, domani da domani ho messo bello tappato a casa, roba fresca da bere, le commissioni le ho già fatte oggi, domani, io ho detto anche a mamma, io domani non voglio sapere niente, io ho comprato il giornale della TV oggi, domani, e tanto più dopo domani non voglio uscire proprio, voglio starmi a casa al fresco. Cappa, Natali, io per esempio ho già due switching per questione di pecunia della Procel, ho detto 1,50 e 1,30, 30 che poi se risogna saranno 20. Ho detto, quello non credo che poi sia tanto peggio a me, quello che c'è dentro negli switching, problemi non ne hanno mai dati, cioè usandoli in radio non ha dato mai nessun problema, né rongine, QRM, ricezione, né alternata, nulla, quello vabbè è un po' più delicato, ma non avevo nemmeno bisogno di prenderlo, l'ho preso giusto per curiosità, per vedere cosa ne esce fuori, a qualcosa servirà poi, dai. E cappa, infatti. Io ce li ho due, uno della Proxel e l'altro non mi ricordo di che marca è, comunque sono precisimi, c'hanno gli strumenti, c'hanno, c'è una schedina dentro, non ti credi che ci sia, se lo apri lo vedi, io l'ho aperto per pulirlo, adesso uno lo devo tornare a aprire per pulirlo, quello vecchio. Grazie. Cioè io forse per me, per esempio io all'inizio nel 2010, quando che sono entrato? 2010, avevo comprato la GBC un alimentatore col trasformatore, no? Da volgari tipo 5 ampere, 7 di picco, no? Che per un baracchino anche a 30 watt bastano, avanzano, garantito, provato, eccetera. Però c'è 5 ampere schifosi, mi pare 68-70 euro a lamelle, no, col trasformatore. Cioè costano troppo, tu dici vabbè online qualcosa risparmia, ma costano sempre troppo. Cioè se tu prendi un 30 ampere, il minimo sindacale, poi sai, lineretti, coso, un 30 ampere col trasformatore, già io penso che siamo sui 150, forse anche 200 euro, forse anche di più, Claudio, non te ne sai dei prezzi attuali? E sono 300 buru, un 30 ampere costerà 300 euro. No, troppo, vi lavoro, no, oppure mi accontento di uno da 5 ampere, 7 ampere, una cosa del genere, però sono troppo costosi, cioè sono farmacie, in tutti i negozi, tutti, quelli switching te li tirano dietro perché sono più semplici, vabbè funzionano, finché funzionano, cosa ti devo dire? Claudio riprendi, forse Claudio sta controllando la cottura, che adesso è ora di cena per lui. Natalino minimo ha già mangiato o no? Sì, ho già mangiato. No, Claudio pure ha già mangiato, Marco. Magari si è spostato a vedere come va in veranda la situazione. Io qua ho fatto tutto buio, ho lasciato le ante solo delle finestre aperte e ho attaccato il ventilatore, ma si stava benissimo. Che lingua era? Dusilusami, arrivava basso. Ho sentito, sembrava sardo, catalano, spagnolo, non lo so, un misto di tutti e tre. E vabbè, non rispondi, mamma mia, se no venne a rompirsi i catturi. Io manco li rispondo se li sento. Questa mattina mi sono andato a bere. Riga, oggi c'è un po' più di belame. Due giorni fa calma piatta, ieri pochino, oggi più roba. è così. Comunque anch'io Natalino, non sono abituato al clima, io il clima non, anzi dove vado, dove lo trovo non lo tollero, io sono abituato a ventilatore a soffitto, ventilatori, ce l'abbiamo qui quel clima, quello strano con quel cordone ombelicale, l'unità esterna, ma io ogni volta che lo metto mi crepa, o mi viene mal di gola o mi viene mal di collo, non sono abituato al climatizzatore. Ah, poi qua è andato tutto a ramengo, Natalì. Dovevano fare il 110%, questo però prima della guerra dei rincari, ci sono duplicati i costi, se non triplicati, tutto tasse, qua brutto segno, vuol dire che le imprese non riescono a farsi carico, capito, delle spese iniziali o come funziona, Vai Claudio. Ah, c'è la prova, sì, a fine mese, poi non ci sono più soldi per il 110%, hanno già dichiarato, adesso hanno fatto questa prova proprio per le ultime risorse, ma non ci sono più fondi, quindi penso che i giochi siano finiti. Sì, Draghi era contrario, non so, aveva detto sì, che era contrario a questa, ma c'è anche qualcuno che ha visto cose scandalose, già gente che aveva finestre nuove, bellissime, coibentate, riscritti, Biagi, facendosi il 110% perché per cambiare magari il colore delle finestre, capito, per il gusto di rinnovarsi la facciata, cioè, tu immagina se tutta Italia facesse la stessa cosa, e il governo andrà da vecchiaccio e se li toglie i soldi, più tutto il resto, redditi, cittadinanza, per carità. Infatti sono finiti per quelle fondi, perché mi hanno approfittato troppo, cioè ci sono condomini che per un 110% l'ha speso 700 mila euro, cioè di quanti stiamo parlando. Infatti. E allora sai cosa hanno fatto a un imprenditore, la mafia? Gli ha bruciato 100 ettari coltivati a grano, col grano che è fermo in coso, in Ucraina, e a questo italiano gli hanno, la mafia mi, gli ha bruciato 100 ettari di terreno coltivato a grano. Ma io giravia a Ciappardi, chi si giravia molti, in mezzo a Rubù. Naturalmente io non dico a chi ha diritto e avere diritto di cittadinanza, ma c'è gente che ha fatto, gente che aveva macchine, case, cioè cose vergognose, tipo fingere di essere separato, di andare a vivere in una specie di bugigatto, di tugurio, pur di pigliarsi soldi, cose folli, cose falsamente intestate ai familiari per farci vedere nulla tenente, hanno fatto di tutto di più, però avete visto che i furbetti del quartierino li stanno beccando qualche centinaio alla volta, gente che aveva soldi, che aveva macchine, che aveva cose, proprio per rubare ai poveri, quello è rubare ai poveri. E allora infatti è proprio così, e già li stanno beccando, se no a quelli che hanno avuto condanne, che non ne hanno diritto al reddito di cittadinanza, si sono collegati al Ministero della Giustizia proprio a castagnarli i voti. Sì, perché a parte che adesso devono restituire tutto, c'è il penale, c'è la truffa ai danni dello Stato. E vabbè, peggio per loro. È un po' come il discorso del... Vabbè, non ne parliamo qua. Sì, ma io dico una cosa, io sono favorevole naturalmente perché sistemato, ha dato la mano a tantissime persone in difficoltà, quindi io ho iniziato a lavorare 16 anni, quindi capisco che se una famiglia non ci sono i soldi non si va da nessuna parte, quindi è stata ed è ancora oggi una cosa fattibile per chi ha veramente bisogno. Io dico, con tutti i controlli che hanno fatto inizialmente, tutti insomma le cose che, come mai questa gente ha percepito di tesseranza senza averne diritto, qualcosa allora non ha funzionato. Un bel di roba non ha funzionato, tipo È come la storia del finto cieco che era 20 o 30 anni che percepiva le cose di cecità, questo guidava, se ne andava in giro, andava a fare la spesa, a giocarsi la schierina, tutto, no? E in 30, dopo 30 anni se ne sono accorti. Lì ci sono medici con i 20, gente cafo, chi che fanno certificati falsi, che poi gli dai la mazzetta, una mano lava l'altra, cioè c'è gente che collabora con i furbetti del quartierino e gli fa avere quello che vogliono, però poi quando beccano il furbo dicono: e come mai questa certificazione falsa, chi te l'ha rilasciata, chi te l'ha data la stabilitazione o quello che è? Io sono molto al di fuori, quindi non ti so dire i termini, però sono state falsificazioni, sai, gli amici degli amici, chi lavora in un ufficio, chi nell'altro, e poi ci passano tutti, poi gli va Eddie. E infatti io le avrei dato, che poi è sbagliato, il reddito di cittadinanza come è fatto è sbagliato, perché è fatto per la gente che deve lavorare. Quindi, siccome in Germania c'è, da 30 anni io lo conosco, però è diverso, non è come questo di qua. Io per i poveri gli avrei dato un sussidio, che non deve andare a lavorare, non deve avere bisogno e basta per dargli questo sussidio, non il reddito di cittadinanza, che non va bene, specialmente se sono invalidi, che non possono andare a lavorare, è per la gente che deve lavorare il reddito di cittadinanza, quindi è sbagliata come legge è fatta. Devi dare un sussidio alla gente che ne ha bisogno, non un reddito di cittadinanza, è sbagliato. Sì, ma sono d'accordo con te, è così. Ma c'è già una petizione alla Camera dei Deputati per questa cosa, cioè nel senso che continuano a dare reddito di cittadinanza a chi può, o ha bisogno, ma può anche allo stesso tempo lavorare. Mentre un sussidio, che non so di quanto sia, per chi non può più andare a lavorare ed è in attesa di pensione. Ma è chiaro che il reddito di cittadinanza sta creando grossi problemi, grossi problemi. Mia figlia ha avuto un sacco di problemi al lavoro, nel senso che quando chiama gli extra le dicono di no perché percepiscono le 500 euro, le 400 euro del reddito di cittadinanza senza fare un cazzo, capito? Quindi è vergognoso, quindi qualcosa, come ho già detto prima, non sta funzionando, o non ha funzionato, per meglio dire, perché se tu fai una legge dove dici che io devo dare reddito di cittadinanza alle persone che hanno bisogno, allo stesso tempo devi anche mettere in atto o fare un'altra legge appresso a quella dove dici che chi percepisce reddito di cittadinanza deve anche andare a lavorare, se ti chiamano devi andare a lavorare, se tu però ti chiamano e tu hai l'orientazione, ti manca mezza mano, ti manca, sei troppo, c'hai il bastone, sei tutto guasto e non puoi lavorare, non puoi percepire reddito di cittadinanza. Come hai detto tu, deve percepire un sussidio che lo aiuta a campare sino alla pensione, sino a quando necessita, tutto qua. E infatti è sbagliato il reddito. Poi lo sai questa cosa, chi anda, tu li chiami a travagliare i salienti e vogliono, magari vengono a lavorare, però vogliono fare in nero, perché sennò se tu li assicuri perdono il reddito di cittadinanza, compreso la cosa non più vuole andare. Siamo rimacchi tu. Infatti Ilaria ha avuto problemi per questo e ha tutt'oggi i problemi, tanto quello stasera c'era la riunione perché necessita adesso per il periodo estivo del personale e quindi cioè, debbono per forza assumere o a chiamata o per due mesi o per tre mesi per la sostituzione di fede, ma devono fare delle assunzioni, mentre invece gli extra che vengono chiamati per dare una mano il sabato, la domenica, nel periodo adesso tu immaginati c'è la cavalcata sarda del Mar in Piazza d'Italia, quindi immaginati tu la cavalcata sarda si svolge il punto strategico in Piazza d'Italia, quindi loro singoli sono quattro, quindi minimo ce ne vorranno altre quattro, queste quattro persone persone, non si trovano, non ci vanno a lavorare, perché percepisco reddito di cittadinanza, quindi tramite l'ufficio di collocamento adesso faranno una richiesta specifica per poter assumere 4 persone per il periodo che serve, tutto qua, capito? È un casino. E a me anda a dirlo. Io da quando l'hanno fatto ho sempre detto che è sbagliato. Sì, serviva quello. Cioè, il reddito di cittadinanza doveva prevedere un percorso formativo per formarti a un lavoro. Dopodiché ti facevano 2 chiamate, mi pare, 2 o 3, adesso non mi ricordo. Si rifiutava tipo la seconda volta, la terza, ma penso la seconda, te lo toglievano il reddito. Invece percorsi formativi e lungo, poi come è arrivato il Covid il paese si è bloccato. Quindi niente, stanno continuando ad agire tutto lì. Ma mi ricordo, Claudio, che avevi detto quella cosa di Ilaria che non trovava personale, perché anche chiamando amiche per tappare buchi, non nell'orario del bar, no, quelle magari 3-4 orette, dice che non ci andavano, non trovava personale perché alcune amiche hanno detto che non gli conveniva, perché loro prendevano già quello senza far nulla, e quindi dice che me lo fa fare a me di farmi queste orette lavorative se sono leggero già, te lo ricordi? Non lo confermo, ma guarda che mia figlia da 50 euro, perché lei ha iniziato a lavorare che aveva 14 anni al bar, ne ha 35, quindi capisce e sa che cosa vuol dire lavorare al bar, ok? Da 50 euro per 4 ore, a volte anche 3, 50 euro, ma chi cazzo te li dà? Ma chi te li dà? Ma io quando lavoravo al comune mi davano 7 euro a ora, mi davano, figurati che la sai, cazzo, sono sottopagati, se ne levo 50 sono dei signori per 3 o 4 ore, o no? Ma non ci vanno, Natalie, non ci vanno, anche amiche, non ci vanno, 50 euro che non arriva la giornata, ero classico cuore, di extra per 4 ore, capito? Per 4 ore, no, poi sai, questi extra vanno presi il sabato e la domenica, durante la settimana il lavoro se lo svolgono loro, però il sabato e la domenica, soprattutto la sua manifestazione, cose del genere, eccetera, ci sono state parecchie, non ci vanno, domani c'ho un matrimonio, no, domani c'ho un battesimo, domani c'ho una cresima, no, se ne vuoi lunedì, no, domenica quando andare a male con il mio ragazzo, di cosa cazzo stiamo parlando? Ma se tu andi all'ufficio di collocamento manco di navigator, travagli uno vinè, quindi chiamate non te ne fanno e stanno sempre elargendo questi soldi, cazzo è sbagliato da come la nuova, è la legge, sbagliata, perché questi parlamentari sono dei cialtroni, non capiscono un cazzo. Lo so, ma per lì, però comandano loro e fanno quello che vogliono, purtroppo, capito? Io ripeto e ribadisco, io sono d'accordo perché c'è gente veramente in grandissima difficoltà e va bene così, però porca miseria, cioè, se ti chiamano a lavorare vai, se sei idoneo per poter lavorare vai, io ho dato ragazzi, io ho iniziato a lavorare a 16 anni, sono in pensione a 58 anni, capito, col massimo, e me ne posso vantare. Oggi come oggi c'è gente certo, che ha 50 anni, non ha neanche 20 anni di contributi, percepisco il reddito di cittadinanza perché non hanno niente, non sanno far niente, non hanno lavoro, non hanno niente, però se ti chiamano, che hai le capacità, sei sano, puoi lavorare, vai a lavorare, perché è tutto contributi che ti vengono dati, non è che ti assumono così in nero, invece la gente non ci va perché percepisce il reddito di cittadinanza di 500 euro, che è il minimo, ok, e in più si fa lavori in nero, si fa altre 1000 euro, sono 1500, vediamo che a meno frutti andare a fare gli extra o di farmi assicurare da Natalino, da Claudio e da Marco quando io sto bene così, è sbagliato, tanto è vero che il governo mi pare che ha recuperato quasi 10 milioni di euro da questa gente che non aveva diritto alla sua cittadinanza e in più l'hanno trovata lavorando in nero, capito? Vai Marco. Sì, anche quello, c'è gente lo percepisce, lavora in nero, però finché non lo sgamano poi... non succede nulla, quando lo sgamano ho pazienza, fanno pagare gli arretrati. Bene, io proseguirei qua con tutta l'ambaradanna, che vado a bere, faccio anche un caffè in vena, forse, no, anzi no, caffè non, gelato. Non voglio diventare dipendente dal caffè, già non bevo, non fumo, non voglio diventare caffeina dipendente. Cappa, che altro dire? Vai Natalia. Se dici torna gelato te lo infilo dove dico io. Ma si è trovato, sì. Mi ha quel coccone di Luca. Io a volte non mi dice nulla, io ormai sono assente. Se ne parlerà inverno adesso, se c'è qualcuno poi al caldo, chi ci rimane a casa? Nessuno. Vabbè, dai. Magari chiamasse da me al lavoro. Io volevo provare anche magari a lavorare adesso al ristorante, così, aiuto lavapiatti. Se trovo qualcosa, però voglio essere assicurato e pagato bene, non vado per una miseria. Ciao Luca, vedi, anche quello è il discorso che fanno tutti. Io guarda, proprio perché l'aria nel settore è una vita, ma proprio immaginati, mi ha telefonato da poco la mia collega di lavoro, che siamo stati anche a scuola assieme, c'ha un ristorante in costa, ristorante bar in costa, e stava cercando del personale. Sono andati in tantissimo, la prima cosa che le chiedevano quanto mi dai e quante ore devo fare. Allora, lo stipendio è questo, la base sindacale è quella, perché lui non è che te lo insegnare io. Se sei un cuoco percepisci lo stipendio da poco, se sei un lavapiatti percepisci lo stipendio da lavapiatti. Quindi lì sono fatti a nulla, nel senso che cosa sai fare? Posso fare tutto, sì, ma specificamente cosa sai fare? Niente. Allora, ti assumiamo come comì, va bene, come comì, no? A paliciare, a sparecchiare, a fare un po' di tutto, ecco, lo stipendio base è di 1.100 euro al mese. Questo è lo stipendio sindacale, non è che lo sto dicendo io, lo dice il sindacato, il contratto nazionale del lavoro, questo è lo stipendio di un comì. Allora già rispondiamo in tutti, no, mi devo 720 euro per il prestaggiante e salva nuda, vengono a fare del zero, era lì, va 1.100 euro, no, ciao, arrivederci, ci siamo andati. Vedi, quello è il ragionamento fatto male, perché se le dassero a me, così ho lo stipendio e in più i contributi. Se sta a trovare qualcosa che pagano bene, non è che mi devo fare quelli zoli, attenzione, ma 1.100 euro al mese, se li fa in cantiere 8 ore, vabbè in cantiere lo so che è pesante, ma lo dico 8 ore te li fa in cantiere, fa anche 9, ma li fa un extra, un'ora in più, pagano, come hanno sempre fatto. E dipende, dipende dalle ore che fai. Non è che uno parte quelli zoli e ti pone i migliori in mano al mese, o pochi. No, non esiste, soprattutto nella ristorazione, tu. Il ristorante inizia a lavorare dalle 8 in poi, dalle 9 in poi, 8 e mezza in poi, capito? Alle 10 e mezza chiude la cucina, alle 11 chiude la cucina, è chiaro che poi tu devi mettere a posto, sistemare tutto, alle 10 è buon viaggio. Certo, quando si vende di travaglio netto, perché non la spiazzerai a papà, io ce l'ho lavorato, di lavoro netto, sono 4 ore, e poi ti balli le balle, capito? Devi sparecchiare, metti tutto a posto, ciao a tutti, alle 10 è buon viaggio. Non è male, la gente risponde in quella maniera, risponde in quella maniera, è detto da mia figlia, ti ripeto, tu già lo sai, Daria la conosci, che è nel settore, è vergognoso, perché c'è gente in grandissima difficoltà, ma in grandissima, ma tu immaginati che un briatore che è uno dei più grandi imprenditori che abbiamo in Sardegna, perché c'ha tutto lui questa smeralda, non riesce